Questa è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Abbandonato la guida del partito ad altri, mi stavo dedicando a una delle tre attività che spero di poter seguire quando entrerò nella mia ultima giovinezza. Una, lo sapete, il Milan, e ha bisogno moltissimo di questi tempi. Questa settimana prossima con due partite sarà importante, ma dopo sicuro che si può gestire anche meglio, e se si gioca a questo livello io sono molto fiducioso che la squadra lo farà bene, e ancora guardo alla Roma. Oggi non era semplice, abbiamo trovato un ambiente molto molto caldo in campo, fuori dal campo, e siamo stati bravi a calarci nella giusta realtà, in quello che dovevo fare in questa partita. Che noia, schiavi delle nostre miserie. Alessandro Jacopini in redazione, Roberto Scaltriti in regia, schiavi delle nostre piccole cose domenicali. Ci siamo persi per ragioni anche di contemporaneità cronologica. L'unica cosa bella, calcisticamente parlando, che poi la corsa invece l'abbiamo vista e poi ne parliamo, sia Milano Sanremo che quella del Qatar, ci siamo persi l'unica cosa calcisticamente bella della domenica. E adesso c'è Messi che apre per Iniesta, il diretto sul mancino, la palla dell'1-0, settimo minuto, ha segnato il Barcellona al Bernabeu. Benzema controlla, Benzema raddoppia! E ha segnato Lionel, la Pulga, Messi, il verdetto del Bernabeu è arrivato. Real Madrid 3, Barcellona 4. Partito con un'opportunità importante, ma passa nada, stiamo sluciando, la Liga sta aperta e seguimos. Caro Pierluigi Pardo, io a casa a guardare Lazio Milan e Catania Juventus, tu addirittura Catania a raccontarlo, e il classico di ferita. Ciao Pier. Ciao. Abbastanza bene, mi sono annoiato moltissimo ieri sera, ti dico la verità. Punto di circostanza per il Milan, solita che vittoria della Juve. Dire, che ti devo dire, dimmi che devo fare. Dai, emigriamo, cosa vuoi che ti dica? Oppure cominciamo a parlare davvero degli altri, cioè allarghiamo i nostri orizzonti. Oggi vedo il Corriere dello Sport che mica apre con il punto di Seedorf che si allunga la vita con la solita vittoria 1-0 della Juventus. Tutta pagina per il classico, sarà anche banale, però grande spettacolo. Sì, io credo che, insomma, pensiamo a qualche anno fa, il calcio internazionale è sempre meno una nicchia, è sempre di più una realtà. Penso che i ragazzi che di oggi hanno come idoli ovviamente i giocatori delle squadre italiane, ma anche di Real Madrid, Barcellona, Chelsea, Paris Saint Germain, eccetera, nascono con questa cultura, quindi ormai la separazione è una volta, insomma, la separazione non è più così netta. Detto questo, insomma, la vera domanda è come facciamo nel giro di 5-10 anni a essere noi a fare degli Juve, degli Inter Milan o dei Roma Napoli che possano valere come il classico di ieri sera. Questo è il tema, insomma. Sì, sai, quando ero piccolo andavo al Palalido di Milano a vedere le partite, volevo comprare la Coca-Cola e c'era il bibitaro del Palalido che mi guardava e mi diceva: "Gever la moneda". Sì. Devo tradurre? Magari per i nostri amici di Passione Sud a Bari. Ci vuole la moneta, ci vogliono le 100 lire, capito? O le 500 lire, insomma, mi sembra che la ricetta sia abbastanza semplice, al di là di tutta la demagogia che vogliamo fare su italiani, stranieri, dire, eccetera. Ci vuole la moneta, benissimo, ma non è che la Spagna, tanto per fare un esempio, sia il paese più ricco del mondo. quindi non è soltanto un discorso di forza economica di un paese, no, ma non di forza economica, però insomma è un discorso di attrattività del nostro calcio, che è ai minimi storici purtroppo. Sì, sì, Pier, perché... però Real, Barcellona, Paris Saint Germain, ma le solite note, Bayern eccetera, i soldi ce li hanno, quindi non è che... Sì, ce li hanno, ma se vedi, se noi, io penso che se ci fossero state le frontiere aperte intese come frontiere economiche, quindi l'internazionalizzazione negli anni 90, noi i vari Abramovic e dintorni ce li saremmo portati a casa noi, perché in quegli anni lì le nostre società, il calcio italiano era l'avanguardia nel mondo, e quindi così come monopolizzavamo dal punto di vista dell'acquisto dei calciatori, sicuramente in quegli anni, se ci fosse l'internazionalizzazione, se ci fossero stati gli Abramovic o gli sceicchi in giro per il mondo capaci di comprare, sarebbero venuti da noi. Sì. Oggi noi siamo meno attraenti e meno competitivi. Ma secondo te è possibile, esiste questa inversione di tendenza, questo cambiamento culturale, per cui io prendo spunto da un messaggio che mi arriva ora, poi invito gli ascoltatori 800240024 e parliamo ovviamente di Seedorf, del Napoli che fa schifo, è tornata a fa schifo, non so perché, della Juventus che ormai vince quasi sempre alla stessa maniera. Parliamo naturalmente di tutti questi argomenti, dopo il traffico aspettiamo un ospite, ma Pierluigi Pardo, esiste questa possibilità di inversione di tendenza per cui, libertà di telecomando, Raffaele scrive, io Super Juventino ho guardato il classico, sono mica scemo. C'è questa possibilità? Di cosa? No, di cambiare canale. Semplicemente di cambiare canale. Il calcio italiano non mi attrae più. Certo, mi guardo Mourinho che asfalta Wenger e poi ci litiga. Mi guardo altre cose, perdendomi eventualmente cose che qui sono storicamente legato. Guarda, se tu prendi gli ascolti e sommi gli ascolti di ieri sera, vedi che il classico ha sfiorato gli ascolti delle due partite. Sì. Ora è chiaro, qua accanto a me Marco Foroni che li fa a memoria. Ha fatto il 3%, le altre partite il 9, due partite compreso diretta gol, quindi insomma, però voglio dire, il 9 significa su due piattaforme, ovviamente tutto su due piattaforme, certo. Quindi insomma, dire, Real Madrid, Barcellona ha fatto quasi gli ascolti che hanno fatto il Milan e la Juve ieri sera. Cioè ieri sera non c'era Fiorentina Chievo con tutto rispetto, o Parma Atalanta, c'erano Milan e Juve, due delle sei squadre con più tifosi in Italia, quindi appunto. È già successa, ripasso. Poi è chiaro che abbiamo beccato un classico particolarmente bello di un campionato molto particolare, perché in Spagna sono stati più degli anni in cui la prima aveva 12 punti sulla seconda, non va dimenticato. Sì, questo è vero. Quindi questo magari tra un anno noi avremo un campionato punto a punto, in Spagna saranno così, quindi diciamo che c'erano anche delle circostanze particolari ieri sera gli ascolti di Real Barça hanno sfiorato quelli delle partite di Milan Juve, quindi questo già è successo di fatto, fa parte insomma della vita. Va bene, chissà i nostri ascoltatori cosa hanno guardato, magari ce lo dicono, 800240024, Pier stai lì, traffico, poi torniamo, abbiamo un ospite, eccetera. Tutti convocati. Tutti convocati. Beh, poi ha ragione anche Marco che scrive se Real Barça l'avessero giocata da noi, adesso tempesta di telefonate sull'arbitro. Beh, ma non è che in Spagna non ci siano, no? No, ma sono già finite, era roba di ieri. Senti, io voglio salutare l'allenatore che ieri ha fatto un'impresa. Lo faccio io o lo fai tu? Fallo. Mi chiamate al fisso, grazie. Ti chiamiamo al fisso subito, Pierluigi Pardo. Sì, però intanto diamo il benvenuto. Certo. Stefano Colantuono, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io e Pardo stavamo facendo disquisizioni anche un po' retoriche sul fatto ieri sera, il classico da una parte, noi invischiati nelle cose del calcio italiano, e in una domenica così stride un po', qualcuno l'ha definita una domenica da archivisti, con mirabile sintesi, cosa che non riguarda l'Atalanta ma riguarda il campionato italiano intero. Sì, in un certo qual modo è così. Sì. Poi bisogna vedere che cosa si intende con quella parola. È chiaro che il campionato con questa marcia, con questa forza della Juve, insomma è così, c'è poco da lottare, c'è poco da vedere. Sì, finito a marzo, no? Come in Germania è già finito quasi matematicamente, sì, adesso il Bayern vincerà la partita. Sì, direi che se non ci fosse stata la Juve per il resto era un campionato magari equilibrato, no? Sia per le posizioni subito dopo la Juve, per i piazzamenti. Ah certo, tolta la Juve non è male. Europa League, piuttosto che per la salvezza. Sì. Purtroppo, per fortuna per la Juve chiaramente, vanno forte, quindi è bello archiviato il campionato. Bello archiviato, intanto c'è l'Atalanta che io ho letto con attenzione, che punta all'Europa, l'ha detto lei. Una volta Mondonico ha spugnato San Siro, ha detto con il Novara, ha detto è come aver vinto il Festival di Sanremo. Ieri a Sanremo ha vinto in bicicletta uno straniero, Christoph, mentre a Milano ha vinto l'Atalanta di Colantuono. Sì, sì, ma c'era già successo l'anno scorso, tra le altre cose, appunto, sia con l'Inter che col Milan. Lì abbiamo fatto una buona partita, molto, molto bella nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo stati bravi a soffrire e a contenere il ritorno dell'Inter, che è stata anche sfortunata, perché poi bisogna essere onesti, e questo va detto, ci mancherebbe. Ma mista, se me lo permette, relativamente, perché una squadra che prende due gol in quella maniera poi si può appellare alla sfortuna, però io valuto la prestazione complessiva. Voi bravissimi, ma loro così. Io non mi permetto di giudicare l'Inter, ci mancherebbe. Io posso parlare dell'Atalanta. L'Atalanta ha fatto un grande primo tempo e forse doveva venire dentro il vantaggio. Nel secondo tempo è stata brava, come dicevo poc'anzi, a contenere e anche un po' fortunata. Poi però nel finale ci ha riprovato, perché prima del vantaggio di Bonaventura abbiamo avuto un'altra occasione grossa con Brienza, e quindi siamo contenti. Sì. Una bella vittoria, ci dà slancio e ci permette di vivere le prossime 9 partite con grande voglia e più serenità. Certo, questa ha ragione. Pierluigi Pardo, ci ma, sei? Insomma, mi sembra che l'Atalanta abbia, adesso mi sono perso l'ultimo minuto di trasmissione, spero di non fare scopa, però mi sembra che in questo momento giochi con l'organizzazione dei tempi d'oro, con la freschezza mentale di una squadra che ha raggiunto l'obiettivo, e questo è un dato. No, volevo chiedere a Colantuono se secondo lui, se condivide la mia diagnosi, che è quella di un Inter che le cose migliori le fa quando ha spazi, cioè la chiave migliore per affrontare l'Inter è cercare di rallentargli la manovra, di fare buona densità, e il vero paradosso è che l'Atalanta subisce il gol dell'1-1 in un momento forse di esaltazione eccessiva, complessiva, con 6-7 giocatori sopra la linea del pallone. Sì, lì abbiamo preso il gol di ripartenza, perché è stato standard, è uscito, non è stato preciso nel disimpegno e poi ci sono andati a bucare proprio lì dove mancava lui. Ma direi che l'Inter, nelle ultime partite l'Inter ha fatto vedere grandi cose, è una squadra secondo me forte, avevo detto alla vigilia che secondo me delle grandi era quella in questo momento che forse stava meglio, perché lo aveva fatto vedere nelle partite precedenti. Non è che ieri abbia fatto male l'Inter secondo me ieri ha fatto una buona partita, specialmente nel secondo tempo. Poi sapete bene che il calcio vive anche gli episodi, e ieri l'episodio è stato più favorevole all'Atalanta, che comunque la partita però se l'è guadagnata e se l'è studiata, perché siamo andati a Milano con una squadra in grande salute e nel primo tempo abbiamo fatto un ottimo calcio, insomma ci siamo giocati proprio alla pari, creando occasioni, però bravo Andano vince in un paio, abbiamo preso anche noi un legno, quindi ce la siamo giocata alla grande. Poi è chiaro che l'Inter ha dei giocatori che se gli concedi campo ti possono fare male, perché comunque gli esterni gli hanno molta gamba. Lo stesso Palacio, un giocatore che negli spazi è bravissimo. Poi con l'arrivo di Hernanez e con Guarin ora ha anche un centrocampo di grande qualità, quindi è una squadra temibilissima. Io ho sotto gli occhi un titolo di questa mattina di Repubblica Online. Con Antuono 2 punti, bene salvezza, in futuro può essere l'Europa. 4 vittorie consecutive, 40 punti, 4 più del Milan. Gli stessi punti del Verona, che era a detta di tutti la rivelazione stagionale. 1 più del Torino delle magie. E allora? Ma allora niente. Sempre noi siamo abituati a lavorare in silenzio, ma è un po' la filosofia di questa terra, di Bergamo, no? Si lavora in silenzio, con tanta calma, senza esaltarci quando facciamo cose importanti come nell'ultimo periodo, ma senza neanche andare in depressione nell'eventualità dovesse arrivare qualche sconfitta, come tra le altre cose in passato è avvenuto. E credo che l'unico verbo sia il lavoro, insomma lavoro e poi tanto quando fai i risultati ci siete voi addetti ai lavori a mettere in risalto il nostro lavoro. Sì. Mister, se fossi, ti do del tu, ministro dello sport, sì, presidente, responsabile unico del calcio italiano, che faresti per ridurre lo spread dagli altri campionati? Che domanda, è fegneria questa. Guarda, il discorso è questo, secondo me. È chiaro che qualcosa forse anche più di qualcosa, magari a livello internazionale abbiamo perso, siamo un po' indietro, però io credo che nel breve i nostri club importanti, la Juve su tutti, che quest'anno secondo me sarà anche un po' sfortunata in Champions League, così come il Napoli, così poi si spera anche nel rientro di Inter con la nuova proprietà, ma anche di Milan, possano tornare a competere con queste forze importantissime che adesso ci sono negli altri campionati, mi riferisco alle spagnole piuttosto che al Bayern, ora c'è anche il Paris Saint Germain. Io credo che possiamo avvicinarci a loro, è chiaro che i tempi sono un po' cambiati, bisognerà forse aspettare qualche anno, anche se io credo che la Juventus già dal prossimo anno potrà essere molto vicino a queste squadre. Sì, secondo me c'è un grande equivoco di fondo che a me disturba parecchio. Si fa molta filosofia nel distinguere tra allenatori, giocatori stranieri o italiani. Io sinceramente nel 2014 l'unica distinzione che riesco a fare è tra quelli bravi e quelli che non lo sono. Forse sarò esterofilo, forse sbaglio io, forse non sono sufficientemente nazionalista, però io l'unica distinzione che riesco a fare è tra professionisti al massimo livello che sono bravi e altri che non lo sono. Noi non, in questo momento storico non ne abbiamo tantissimi. Ma si parla di allenatori o di giocatori? Di tutte e due. Beh, direi che per quello che riguarda la fascia allenatori, insomma, in Europa i nostri non è che stanno facendo poi così male, perché se andiamo a guardare il lavoro di Ancelotti, dello stesso Mancini, sì, sì. Di Spalletti, anche se è stato allontanato, ma ha ottenuto grossi risultati, di Capello, ora dello stesso Zaccheroni, ma insomma i nostri tecnici comunque mi sembra, certo, che all'estero. E di converso abbiamo ad esempio Seedorf, che in questo momento secondo me non è un bravo allenatore. Ma io non mi fate entrare almeno in questo. No, lo dico io. No, io lo dico in generale. È chiaro che poi col fatto che ora ci sono tanti stranieri, sono arrivati tanti stranieri nel nostro campionato, magari tendono un po' a nascondere il lavoro dei nostri calciatori italiani o a togliere un po' di spazio, però insomma abbiamo aperto le frontiere e ormai l'Europa è diventato quasi una dimensione unica, e quindi dobbiamo accettare anche questo. È chiaro che va un po' a scapito delle nazionali, però purtroppo è così. Noi del resto siamo forse stavo leggendo l'altro giorno una classifica, siamo la seconda squadra come per impiego di italiani, e questo da un certo punto di vista è anche un successo. Cosa ne pensi, Pier? Penso che sugli allenatori siamo messi molto bene, sui giocatori non siamo messi così male, perché poi comunque alla fine se guardiamo la nostra nazionale, cioè secondo me abbiamo vissuto fasi migliori dal punto di vista tecnico, generazioni migliori ma anche peggiori. Quello che veramente è da zona retrocessione è l'aspetto organizzativo, gli stadi, che poi è quello che ti dà l'appeal internazionale, secondo me, per andare anche a invogliare gente da fuori, insomma. E poi appunto il malcostume, ci siamo abituati a delle cose. Ieri sera pure c'è stato il pullman della Juve accerchiato a un chilometro e mezzo dallo stadio, quasi non fa più notizia, ti rendi conto? Cioè, ecco, mister, tu quante volte ti sei trovato col pullman arrivando allo stadio in questi anni in delle situazioni incasinate? 20, 30? Magari non se ne ricorda neanche più tutte. Qualche volta mi è capitato, ma ci mancherebbe, sono atti che comunque sono deprecabili e non vanno giustificati. Dove accadono, non è che sto parlando di Catania in particolar modo, perché Catania è una piazza che conosco, perché lì ho lavorato e so benissimo che tipo di persone. No, ma il calcio italiano ad essere così, mister. Persone squisite, insomma, la Sicilia è ospitabile. Poi è chiaro che magari un gruppo di spaduti può rovinare l'immagine di una città che invece è avuto molto civile, però questo accade, purtroppo accade, ma che a me è successo. Ecco, e su questo dovremmo magari combattere e lottare un po' di più, perché in effetti sia questo che il discorso degli stadi, insomma, dell'organizzazione, quello sarebbe da migliorare. Credo che migliorando queste cose miglioreremmo in buona sostanza anche il sistema, e forse potremmo anche tornare a competere con queste altre grandi squadre che comunque secondo me non ci sono molto lontane. Assolutamente, non è un discorso su Catania, anzi era proprio il discorso di una carriera intera, no? Cioè che un allenatore, un giocatore che ha tanti anni, e purtroppo questo vale in Serie A ma vale anche nelle serie minori, ha un kit di esperienze, cioè in quella situazione lì, a nord, a sud, al centro, in provincia, in città, ci si è trovato tante volte, e questa roba qui ti dà l'idea di e non fa quasi più notizia, quando invece dovrebbe far notizia, no? Lo spread così non si riduce di sicuro. Mister, grazie. Grazie a voi, buon grazie. Lavoro. Grazie Stefano Colantuono. Pier sta lì, eh. Adesso tocca agli ascoltatori, dopo la borsa, 800 24 00 24. E segna Bonaventura, ancora il gol dell'Atalanta al 90esimo, incredibile. Tutti convocati. Tutti convocati come ogni giorno, 800 24 00 24, Roberto Torino, Nicola da Milano, eccetera eccetera. Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno gente. Senta, io l'ho chiamato per questo. Pronto? Pronto, la sento, dica. Ah, sì, sento bene. Io vi ascolto sempre, però oggi vorrei farvi un appunto, perché speravo un'apertura diversa rispetto agli altri, con sto classico che da ieri sera ce la menano. Nel senso di questo, quante partite del campionato spagnolo si possono dire come indimenticabili? Ma se sono non questa su quadra, questo, cioè. Su questo sono d'accordo. Infatti, il campionato spagnolo, secondo me, è di bassa lega, nel senso che è vero che hanno un sacco di squadre in coppa ancora, però normalmente partite del campionato spagnolo sono abbastanza inguardabili. Esatto, ieri oltretutto c'è Juve Catania, che era prima contro l'ultima, e in Spagna finisce 7-0. Qua ieri il Catania se l'è giocata e bene o male è arrivata. Sì. Solo questo, cioè, speravo fosse un no, ma su Roberto, su questo sono abbastanza d'accordo, cioè in valore assoluto, a me il campionato spagnolo non piace, quello inglese è un'altra storia, eh. Quelle sono partite diverse. Il campionato tedesco è già finito. Però stiamo parlando di una serata in cui comunque ti giocano il Milan in questa situazione, la Juventus comunque capoclassifica, e io leggo anche i messaggi, difficile resistere alla tentazione di quella partita lì, soltanto questo. Sì, io penso che in assoluto il campionato spagnolo sia un campionato spesso a due, quest'anno a tre, e condivido pienamente tutto quello che hai detto, insomma non ne farei un punto di riferimento assoluto e indimenticabile. Io penso però sinceramente che il rendimento delle coppe sia qualcosa di oggettivo, cioè 5-1 stiamo nelle coppe, e questo è un dato di fatto abbastanza credo anche che sia, insomma, sono cicli, no? Poi c'è l'anno in cui le spagnole gli gira male, non ne piazzano pochissime, insomma, ma non è un indicatore così attendibile, però non è un indicatore così attendibile, Pier. Invece, altri mini temi nostri, il Napoli che si sta sciogliendo e perde il derby appunto tra le deluse d'Europa, l'Inter, ne parlavamo prima con Colantuono, qualcuno dice ha giocato la miglior partita dell'ultimo periodo e becca quei due gol lì, secondo me è abbastanza una follia, secondo me grave passo indietro. La Juventus, tu l'hai vista ieri sera, l'hai raccontata per Mediaset ovviamente a Catania, la Juventus di questo periodo si fa rimbalzare addosso gli avversari per un po', e poi quando questi hanno la lingua fuori li stende. Sì, mi pare una partita abbastanza simile alle ultime, no? Tre vittorie per 1-0 nella stessa settimana, tutte e tre fuori casa, tre partite completamente diverse, ovviamente quella di una pariga era la più importante, la più pesante. La differenza la fanno in questo momento i campioni, la pazienza, la struttura di questa squadra. A me il Catania ieri non è dispiaciuto sul piano dell'atteggiamento, no? della grinta, della voglia. Secondo me, lo dicevo ieri sera prima della partita, lo penso ancora adesso, il Catania può ancora salvarsi, non è in una situazione disperata. Difficile. Anche se certamente, insomma, non è messa bene, però insomma la distanza è 4 punti, mancano 4, molte 6. Giornate, conterà molto il calendario, insomma secondo me non è finita. La Juve è una squadra cinica, come dicono quelli bravi in questo momento, una squadra che aspetta sempre il momento, che ha sicurezza nei suoi mezzi, sa che prima o poi la giocata la trova. E certo, è la quinta partita consecutiva che fa un gol solo, sono piccoli dettagli, ma è chiaro che se poi non subisce però gol, alla fine vuol dire vincere 5 partite per 1-0. Il Milan di Capello mi pare nel 96, 94 forse, vinse tutto il campionato con una quantità di 1-0 incredibile, con un rigore, a favore sbagliato, se non ricordo male. Esatto. Solo un rigore a favore sbagliato, potrei anche azzardare da Marco Simone, però lì vado veramente sui ricordi lontani. A proposito, dove va il Milan? Questo pareggino, come tanto abbiamo, pareggino di circostanza, direi, che tante volte abbiamo visto le squadre in difficoltà, ti allunga il respiro per 3 giorni, non risolve mezzo problema. Vabbè. Nico Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo, grazie per avermi convocato. Guarda, io sono milanista, per cui ieri sera da tifoso spettatore io ho scelto il classico, perché mi sembrava che comunque fosse sì, anche perché c'è grande depressione, c'è grande depressione. Sì, esattamente. Poi io c'ho il vicino che invece è un milanista di quelli, sì. Per cui sento lui e ho sentito a un certo punto questo però molto smorzato, non il gol di una volta. Quindi vi faccia riepilogare. Nico, fammi riepilogare la situazione. Tu eri lì in salotto che guardavi il classico, e però avevi nell'auricolare. Vicino di casa proprio, l'auricolare era vicino di casa. Però, normalmente quando ci sono i gol fa gol così bene. Quindi aveva fatto questo gol così. Ho detto, annullato, forse giro, vedo Cacà, no, gol è gol. No, aspettiamo, andiamo perché capire. Poi vedo questo golletto misero, un'autorete, insomma dall'altra parte erano una giocata via l'altra. Adesso uno può dire tutto quello che vuole, però lo spettacolo era dall'altra parte. Se uno gli piace lo spettacolo, sì, se uno è un malato vuole soffrire, stare lì a guardare queste partite qui, che poi guardi dopo finite le partite, ti fanno vedere il riassunto, e guarda il riassunto di Catania Juve, di Milan Lazio Milan, cioè che cosa c'è stato. E lo so, ma vai anche dove ti porta il cuore, se no c'erano anche un sacco di film belli ieri sera volendo. Però non male, Pier, questa immagine. Sì, anche se io ho un problema, lo dico all'audio, perché se no sentivo pochissimo la telefonata, sentiva bassissimo. No, l'immagine, per quello che ho capito, racconta... No, diciamo, c'era Nico che guardava la TV, il classico, e c'era il vicino che è milanista, dice, ok, se segna il Milan lo sento, magari faccio una scanalata e mi guardo il gol, capito? Esatto. Ma sono i tempi, sono i tempi, non c'è niente di... Ma sai, il classico, vabbè, il classico è una partita che anche stante, negli anni spiegati, una partita che uno vede, cioè non... Cerchiamo anche di non essere... Accolgo il pensiero dell'ascoltatore precedente. Dove va il Milan? Dove va il Milan? Il Milan va... Dove va? Dove sta adesso? Cioè dove va? Nella metà classifica. Da nessuna parte. E quest'estate deve... Seedorf dove va, Piero? Fare chiarezza con se stesso. Dove Ma va? Seedorf, secondo me, rischia. Rischia ed è stato forse a questo punto un azzardo grande... non aver resistito in quelle ore alla necessità di dare una scossa di questo tipo, magari cercare un traghettatore e cercare di giocarsene in maniera un po' diversa. Ecco, questo col senno di poi potrebbe essere stato un errore del Milan e un errore anche per la carriera di Clarence Seedorf, che rischia dopo 20 partite di avere già un'immagine molto appannata, quando invece lui, per il carisma che ha avuto da calciatore e l'intelligenza che ha, sicuramente una possibilità in questo ruolo se la merita. Sì, ho capito, però prima ne parlavo col signor Cruciani, che è dovuto scappare, se no oggi era qui, e dice, ma perché Seedorf è andato lì? Beh, voglio dire, non hai mai fatto l'allenatore, ti chiamano a fare l'allenatore del Milan, non è che è la Battivagliese, con tutto rispetto per quello. Ci vai e rischi. Non sta lavorando bene, mi sembra che abbia fatto anche un sacco di casino. Filippo Maria Ricci, ciao. Buon pomeriggio. Da Madrid. Come va? Tu hai visto la Juve ieri sera, vero? Eri al Bernabeu, ma avevi il lettore. Sì, io Catania non riuscivo a staccare gli occhi da Catania Juventus. Da Catania Juve. Midollo del calcio italiano. Che non è stata brutta, perché sennò veramente poi diamo un'immagine. Non è stata brutta partita. No, sacche botte. Anche magari se paragoni un Milan Juve con uno Osasuna Real Madrid. Appunto. Cioè, meglio Milan Juve, vuoi dire, no? Sì. Certo. Adesso ieri Catania Juve non era la partita tra le più appetibili. Lazio Milan un pochino meglio, però chiaro, stiamo parlando di un classico che poi finisce 3-4. Sì. Certo. Quante polemiche ci sono oggi in Spagna sugli arbitri? Quanto si parla di arbitri oggi in Spagna? E Ronaldo che dice non vogliono farci vincere, no, guarda, di qua e di là. Ne hanno parlato tantissimo i giocatori del Madrid. Ovviamente debitamente istruiti, probabilmente da chi? Ronaldo e Ramos. Istruiti però, da chi? Da Mourinho? No, non c'è più, quindi prima ce la siamo presa con lui. Però c'è qualcuno nel club che ha interesse a montare questo tipo di polemica, che ovviamente non è Ancelotti, perché poi Ancelotti è stato molto tranquillo, è stato anche molto apprezzato il suo intervento in sala stampa. Però ti dico, per esempio, i giornali di Madrid, Marca e As, non vanno dietro ai giocatori del Madrid con queste prime pagine roboanti, tipo furto, capito, manette o cose così, no. E per cui è una cosa che resta molto circoscritta a due giocatori che però essendo Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, quindi non gli ultimi due stupidi, è chiaro che fa rumore. Però vuol dire fa un po' ridere lamentarsi dell'arbitro quando il primo rigore che danno è quello al Madrid ed è mezzo metro fuori area. È chiaro che dopo si è sbagliato, ha dato quell'altro che era un rigore un po' light o forse sì, non c'era, che poi porta il rosso. Però ti dico, non le polemiche, cioè se ne parla, però a me non in maniera invasata o insomma, no, diciamo che guarda Filippo, diciamo fosse stata qua una partita di quel genere, fosse stato appunto Milan-Juventus e ci sono anche recenti insomma precedenti, stasera Pardo andava a tiki-taki in mimetica. Sì, però c'è una cosa, l'arbitro sbaglia per tutti e due, questo è importante, sì, sì, perché regala un rigore al Madrid. Ma poi può anche sbagliare da una parte, io ti dico, una partita di questo tipo fosse stata da queste parti, Pardo andava lì che sembrava Rambo. No, questo d'accordo. No, io dico, qua non mi sembra, cioè è chiaro che se ne parla, che non voglio, esce Ronaldo e dice giocavamo contro 12 avversari, no, sono invidiosi e via dicendo. Ma questo fa parte anche del gioco, dai. Secondo me questo ci sta, voglio dire, secondo me anche discorsi di questo tipo. Io adesso onestamente le cose che ha detto Cristiano Ronaldo sono cose che se l'avessero detto in Italia ci avremmo fatto le paginate e secondo me hanno fatto bene a farle lì. Cioè, adesso non vorrei dimenticare, perché secondo me il punto non è che il problema è la polemica, il problema è il calcio italiano, non è la polemica. Il problema del calcio italiano per me sono i soldi, gli stati, tutta una serie di problemi che abbiamo, la cultura sportiva. Beh, sì, la qualità. Non è la polemica, dai. Cristiano Ronaldo ieri ha detto delle cose pesantissime. Tremendo, infatti, no. Però dico, forse la reazione, diciamo, l'accoglienza di queste frasi, forse può essere un pochino certo, diverso. Certo, non è che, cioè, AS, che voglio dire, va sempre dietro al Madrid e così, non mettono, cioè, il titolo è Tormenta del Football. Non è, capito, erano in 12 col faccione di Ronaldo. In questo c'è una diversa, forse, percezione. Percezione, diciamo, sì. Diciamo percezione. Traffico, state lì, Filippo e Pierluigi Pardo, ancora un attimo e torniamo subito. Tutti convocati. Vincenzo. Sì, buongiorno. Dica. Grazie di avermi convocato. Niente, volevo sapere, lasciamo stare il calcio giocato. Ieri ho visto la partita del Bernabeu. In Italia non si vede uno spettacolo del genere da parecchio, cioè i tifosi, niente striscioni, tutti a divertirsi. Volevo un tuo parere su questo. A mio parere che siamo in Italia, voglio dire, io non demonizzerei le nostre tradizioni, anche quelle discutibili, insomma non saremo mai né la Spagna, né l'Inghilterra, né la Germania, né la Francia, siamo l'Italia. Da questo punto di vista non mi sento di piangermi addosso più di tanto. Mi piangerei più volentieri addosso calcisticamente. Eravamo noi, quelli fighi eravamo noi, sì, non è che adesso noi per forza deve diventare. No, ma infatti hai ragione. Cioè, noi siamo Pier. Un popolo, e questa è una cosa bella, in generale siamo un popolo esterofilo. Siamo un popolo ben disposto verso l'estero, un popolo curioso. Tendenzialmente se c'è uno straniero per strada ci sforziamo di parlare varie lingue pur di aiutarlo da comunicazioni. Sono cose belle, no? È un'apertura mentale nei confronti degli altri, secondo me positiva. E quindi siamo delle volte anche suscettibili a certe mode, a certe cose. Non dobbiamo diventare come gli altri. Siamo l'Italia, però dobbiamo riuscire a correggere le cose che non vanno, che sono nel calcio centinaia di migliaia, purtroppo. Da questo punto di vista io non lo so se riducendo il numero delle squadre in Serie A, se dando l'obbligo di avere dei giocatori under 20, under 21 nelle rose, se Renzi ci sta ascoltando, delle agevolazioni per la costruzione degli stadi, non lo so, però secondo me siamo arrivati al punto che i problemi dobbiamo risolvere, altrimenti il destino è quello proprio di un cupo malinconico declino. Sì. Di fare gli spettatori. Fare gli spettatori, facciamo, tu dici, Filippo? Facciamo gli spettatori, questo grande classico, che va bene, quindi nessuno può discutere, no? La grandezza della partita, c'erano in campo Messi e Ronaldo che hanno vinto, no? Gli ultimi 4 palloni d'oro, le 4 scarpe d'oro e via dicendo. C'era mezza nazionale spagnola che ha vinto tutto, però al di là di questo, noi essendo uno deve guardare all'Italia, dove possiamo migliorare, tutto lì, insomma, non, poi dopo qua si vede in un altro modo, ci sarà anche qualcuno che ti viene a dire no, ma a me l'atmosfera al Bernabeu non piace perché è un teatro e quindi io voglio vivere la partita in un altro modo, ed è rispettabile, però sicuramente noi abbiamo tante cose da migliorare. Io partirei proprio anche dal calcio, cioè a livello stilistico, insomma, da noi sono troppe le partite che sono difficili da guardare. Sì, questo è vero, anche se Filippo è un discorso che abbiamo fatto mille volte, a me eccita meno vedere un 7-0, voglio dire, come Spagna, certo, capita spesso, quindi secondo me, ma sono anche questioni di culturali, voglio dire, siamo l'Italia, abbiamo un sacco di cose da correggere, è vero, ci piace molto piangerci addosso, questo è vero. In questo momento la verità è che abbiamo probabilmente molti meno quattrini rispetto agli altri e stiamo soffrendo questo. C'è Beppe da Verona che scrive: ma vi fate il processo da soli, voi giornalisti siete voi che montate le polemiche e poi vi meravigliate se all'estero non lo fanno. Non siamo noi che montiamo le polemiche, è che all'estero semplicemente se si fa questo tipo di polemica importa meno. Questo no, secondo me. Le parole di Cristiano vengono raccontate perché sono una notizia importantissima. Perfetto. Non ci si mena al bar. Dopo non esatto. c'è tutto esatto. il resto. Esatto. Pier, cosa volevi dire? No, volevo dire che ci sono anche altre forme di malcostume, per esempio, insomma, Filippo ha vissuto in Inghilterra ci sono i paparazzi che sono scatenati sulla vita privata, certo, dei calciatori, della quale a noi tendenzialmente ce ne frega poco, cioè è Icardi che ci vuole aggiornare giorno per giorno delle sue gesta erotiche, ma noi tendenzialmente gli italiani da questo punto di vista sono abbastanza, facciamo anche a meno, riguarda tutti i personaggi pubblici, non solo i calciatori, perché all'estero c'è un'attenzione spasmodica nei confronti di chi fa cosa con chi, ma nella politica, nello spettacolo, nello sport, mentre a noi frega poco, hai ragione Pier. Vabbè, quella è la cultura del tabloide. Non è tutto da buttare, per me dobbiamo ritrovare il piacere del gioco, il piacere di giocare a pallone, il piacere di andare a vincere le partite, di giocare a pallone, di fare spettacolo, della prestazione, il gusto della prestazione. Noi siamo i draghi della tattica. Oggi però c'è un eccesso di tattica nel nostro calcio, pensiamo con la furbizia e con la malizia che i nostri allenatori hanno, continuiamo a esportare grandi allenatori e questo è un dato, però pensiamo con questo di riuscire a coprire tutti i nostri difetti che ci sono purtroppo invece, sono molto molto evidenti, insomma. Sì, troppo condizionati da risultato comunque, sempre, insomma, un obbligo. Per quello io, quel discorso che facevi tu prima anche su Seedorf, lui ha rischiato e ha rischiato anche il Milan, perché non è che lui entrava in una situazione per cui dice va bene, comunque vada, non c'è problema, lo proteggiamo, no. Non c'è tempo, non c'è voglia di aspettare, cioè, no? E sì, adesso rischia di essere bruciato. Sì, questo si sa già, cioè è sempre stato così, no? Sì, però dovrebbe pure un pochino cambiare, o no? Secondo me è abbastanza difficile perché lo viviamo in questa maniera, poi non è chiaro che tutto qui è a termine, però è così, ma d'altra parte mi è piaciuto molto anche, insomma, non solo Cristiano Ronaldo, ma avete sentito, no, tutti e due, Pierluigi e Filippo, Mourinho in Inghilterra, adesso vuole la moviola anche lui per questo scambio di persona su quel rigore dopo aver asfaltato l'Arsenal. Ormai è intollerabile, dai. Cosa? Patetico. Chi? L'errore di persona, dai. Sì, no, questa è la cosa, poi dal mondo, dai. Ma ci sono degli arbitri in giro per l'Europa che allora e allora cosa facciamo? Vabbè, però dico che non ci sia un Cristo lì che gli dica guarda che si sta sbagliando. Non so, quindi? Se una partita di quel tipo, sai, un coso se vai a fare, non so, Wimbledon Bournemouth. Quindi? E quindi qualcuno legale o illegale che gli dia un aiuto. Legale o illegale, va bene. Come quel signore a bordo campo in Italia Francia, esatto, va bene. Dice guarda che avete visto quello che è successo al Caen, no? Al nord della Francia, hanno accerchiato l'arbitro con i telefonini e con la moglie, hanno fatto della moviola, insomma. Dai. Ah sì? La sapevo. Stupendo. giornata di oggi, insomma, per sulla concessione di un gol. Quindi io ripeto, non è, secondo me, noi dobbiamo inquadrare quello che è il problema. Il problema è che ci sono pochi soldi e che noi non riusciamo ad attrarre soldi. Quindi al di là della debolezza economica dell'Italia, che secondo me Filippo lo potrà confermare, non è che sia poi un paese così messo peggio, ad esempio, rispetto alla Spagna. No, assolutamente. No. Ecco, però noi abbiamo una incapacità in questi anni a livello di calcio di renderci attraenti nei confronti degli investitori. Questo è il problema. Nonostante poi... la nazionale ci sta facendo invece un grande favore, perché sembra, piace molto. Io quando faccio le interviste qua, ovviamente sono sempre stranieri, tutti parlano molto bene della nostra nazionale, però la Serie A è migliorata quest'anno, siamo partiti secondo me molto bene, adesso meno, e poi abbiamo il disastro europeo, si può avere una squadra su 16 in Europa, no? Questo è vero, questo poi è l'unica cosa che conta, perché è l'unica misura vera, è bravo, è l'unico parametro. Poi le polemiche ci sono ovunque, cioè. Io uscire col Galatasaray, dai, è un peccato. Grazie ragazzi, devo salutare il suo GR. Grazie Filippo Marianricci, per Luigi Parlo, ci sentiamo domani. Tiki-Taka stasera, chi hai al volo? Stasera abbiamo Acerbi, abbiamo Valcavalero, abbiamo la Barriales, abbiamo Telese, abbiamo un sacco di gente, Mughini, Auriemma, eccetera. Adesso le ripeto tutti, mentalmente. Memorizzo. Collegamento col ritiro del Milan, Ma che ora? Prima di mezzanotte. 23:30, no? 23:30 Italia. Mi raccomando, puntuale, Va bene. Mi raccomando. Ciao Pier, ciao. Daniele? Daniele D'Ascoli Piceno mi aspetterà. Dopo il GR lo sentiamo e voglio parlare anche di una cosa che invece ieri mi è piaciuta molto. La prima del moto mondiale. Tutti convocati. Facciamo? Sì, ce la facciamo, accendere il microfono. 800 24 00 24. Ieri sera, vabbè, prima del non voglio esagerare, però della grande depressione, Catania, Juventus e Lazio Milan, almeno ci siamo visti una grande gara di moto mondiale. Poi c'è chi fa la solita ironia su Evasore, eccetera eccetera, vabbè, ma siete incorreggibili. Se ci levate Valentino Rossi, è chiaro che il moto mondiale diventa più o meno come il campionato italiano, e ieri sera, insomma, abbiamo visto tutto nel complesso un grande spettacolo sportivo. Poi è chiaro che se Valentino corre in quel modo, arriva secondo e ti dà l'impressione di essere davvero tornato, vabbè, allora ne vale davvero la pena. È stata una gara bellissima, sono contentissimo, ringrazio tutti, la Yamaha, tutto il mio team, Galbusera che ha fatto questo esordio che secondo me il cuore gli è andato un po' in alto, e sono contento perché ho fatto una grande gara, una grande rimonta, ho rischiato un po' ma non ho sbagliato niente, e quando sono arrivato con Mark sinceramente avevo la possibilità di vincere, ci ho provato, lui mi ha ripassato e purtroppo era un po' lontano, ci volevo provare ancora l'ultimo giro ma non ce l'ha fatta. È stato bravo Graziano Rossi, ciao. Ciao, buongiorno, ciao. Senti, ti devo chiedere scusa, mi sono dimenticato di farti gli auguri, l'altro giorno hai compiuto 60. Mi sono dimenticato di chiamarti, lo faccio adesso pubblicamente davanti a tutta Italia. No, guarda, puoi anche potevi anche dimenticartelo, che a questa età gli auguri non sono più tanto lasciamo stare, cosa dici? Tanto attesi. Mica tutti fortunati come me che nascono il 29 febbraio, quindi una volta ogni quattro e ciao. Che culo. In compenso abbiamo goduto, caro Graziano. Sì, a me come Galbusera il cuore mi ha girato un pochino in alto questa volta. Ma comunque, se vogliamo, prova a far finta di non essere papà di Valentino e ad essere un ex pilota, un amante di questo sport. Una grande gara assolutamente, e anche una prestazione di Valentino che ci fa ben sperare, sì, per le prossime gare. Perché io provo a immaginarmi la prossima gara con Lorenzo insieme a loro due così competitivi, Pedrosa probabilmente anche lui del gruppo, no? Sì. E ti lasci immaginare cosa può venire fuori a livello di spettacolo, ecco. Sì. Sì, senti, ma gli fa Valentino a mettere le mani addosso al ragazzino? E ieri sera ha fatto, secondo me, era più di così non poteva. Più di così non poteva. Più di così non poteva neanche l'altro, però, sai? Mm. Loro erano tutti e due al limite, secondo me, perché non c'era da parte di entrambi la sicurezza di poter vincere o di dover perdere, quindi hanno dato tutti e due il massimo. Siccome sono arrivati attaccati, vuol dire che Valentino potrebbe perdere o potrebbe anche vincere, perché poi non dimentichiamoci una cosa: il giovane è un pilota meraviglioso a cui piace lo scontro diretto, a cui piace la lotta corpo a corpo come Valentino, sì. ed è meraviglioso. Valentino ha sempre avuto, però non dimentichiamoci, un grande occhio nella gestione degli avversari, sì, no? Sì, e sì. Quindi io se non 50-50 oggi darei pochissimo di più a Marquez. Senti, ma esiste una differenza tra la Honda e la Yamaha? Secondo me di motore la Honda va un po' più forte. E si vedeva ieri in fondo a Guerrettino. Si vedeva ieri in fondo a Guerrettino. La Yamaha ha un vantaggio invece della parte ciclistica, che in alcune piste viene fuori e in altre piste no, in altre piste meno. Quindi ci sono alcune piste dove le due moto sono alla pari e alcune piste dove è un pochino più veloce la Honda. Davide da Milano è un ascoltatore che voleva intervenire. Sì. Dica. Pronto? Davide, buongiorno. Pronto, buongiorno, mi scusi. Solo una cosa volevo segnalarvi, che ieri si è sentita la mancanza delle telecronache di Guido Meda e del suo. La cosa che più mi è, oltre che la soddisfazione e l'emozione di vedere Valentino lì davanti a combattere, perché erano anni che non vedevamo. Abbiamo bisogno di lui, cioè abbiamo bisogno di Valentino Rossi, poi Guido Meda, io credo che insomma molta parte, al di là del fatto che secondo me lui è il numero uno assoluto, molta parte la faccio anche l'abitudine, per anni abbiamo sentito le sue telecronache, ci siamo abituati al suo modo di farci vivere le corse, io al commento do la giusta importanza, preferisco quello che vedo in pista e quello che ho visto ieri, sinceramente a me ha fatto saltare sul divano anche senza Guido Meda che me lo diceva, voglio dire, questo è il senso. A Graziano invece voglio chiedere che ruolo possono giocare in questo mondiale invece i vari Bradl, che ieri si è sdraiato quando era in testa, Crashlow, Bautista, questi outsider secondo te, Graziano, avranno un peso oppure no? Secondo me ce ne sono almeno tre o quattro che possono inserirsi nella lotta per il podio qualche volta in qualche pista dove sì. La moto si adatta un po' meglio, dove il pilota si adatta un po' meglio. Quindi solo qualche volta. Mi sembra però che oltre a Pedrosa non ci sia al momento un altro pilota in grado di entrare con la stessa forza, diciamo, sì. Nel gruppo di quei quattro lì. Al momento non ne vedo un altro. Quindi tu dici solo qualche volta possono inserirsi, però sarà una lotta a tre con Pedrosa che... Ma diciamo una cosa, sì. Il pilota di Gresini, Bautista... Sì. Ieri è andato molto forte, non è detto che Bautista non faccia un altro piccolo saltino in avanti al punto da diventare qualche volta competitivo, chissà, se ne arrivasse anche un altro o anche altri due, ben venga per lo spettacolo, per Valentino sono già sufficienti quelli che ci sono. bastano quelli. Senti, ma tu hai notato qualche differenza nel modo di guidare di Valentino ieri rispetto all'anno scorso? No, io non l'ho notato. Io lo posso avere saputo dai giornali, perché poi con lui non sono mai riuscito a parlarne, sì. di questo suo nuova voglia di copiare da Marquez la guida con il corpo più spostato all'interno della pista, quindi più a penzoloni sulla moto. Secondo me è vero, senz'altro, però io vedendolo dalla televisione non l'ho notato sinceramente. Io credo però che Valentino abbia ancora intatta l'umiltà di andare a copiare qualcosa da quelli che vanno forte. Hai ragione. E questo è un grande segno di passione, ecco, di disponibilità. Hai ragione, perché quanti andrebbero a dire, quali calciatori senti, Ibrahimovic dice aspetta che copio quello che fa Bonaventura dell'Atalanta perché lui viene bene. Un'ultima cosa, l'errore di Giorgino Lorenzo. Sì, l'errore di Jorge è un normalissimo errore da tensione del primo giro, la partenza è venuta benissimo. Ma come lui la tensione, Graziano? La possibilità di scappare via subito è un normalissimo errore che può succedere a tutti, in qualsiasi momento, secondo me. Grazie, auguri, in differita, di nuovo. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Ciao Graziano Rossi. Moreno da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei, Moreno, che piacere. Mi prendo un momento proprio, guardi, sono un camionista, stavo scaricando, ho detto accetto. Che trasporta, che sta trasportando in questo momento? In questo momento ho consegnato un radiatore. Un radiatore? Ah però, pesantino. Volevo intervenire per quanto riguarda la programmazione di ieri sera. Io sono uno juventino e sono andato a vedere la partita da mio fratello fiorentino a vedere il classico, che sinceramente poi mi è andata bene perché tra il primo e il secondo tempo mi sono visto anche il gol della Juve, sinceramente, e questo non è male. Sì. E sinceramente lo spettacolo è bello, però per quanto mi riguarda errori a iosa, perché le difese molto ballerine e tutto quanto, insomma, sinceramente è un bello spettacolo, però campioni in campo tantissimi. Però un attimo, insomma, da rivedere. Ma sì, sicuramente, no? Un 4-3 non può essere immune da errori. E in conclusione volevo dire, spettacolo grandissimo di MotoGP, però una cosa la devo dire, tutti in piedi sul divano ad aspettare il grande Guido Meda, perché sinceramente ci manca. Perché lo so, però entusiasmo in queste gare penso che non manchi. Vale quello che ho detto prima, no? Zoran Fischer secondo me è molto bravo. Anche qui siamo abituati ad un altro tipo di commento, ma perché per anni abbiamo ascoltato un altro tipo di commento. Poi detto questo, anche a me manca quel tipo di telecronache che però possiamo ascoltare in altri ambiti, come ad esempio quello della Superbike. Secondo me il grande spettacolo è quello che abbiamo visto in pista. Poi il commento fa parte del contesto, è la cornice di un quadro che ieri sera è stato bellissimo. Poi la cornice la valuteremo col tempo. Più che altro sulla storia del calcio italiano mi sto sempre più convincendo del fatto che l'unica cosa che davvero ci deprime da morire, che davvero ci manca da morire, è una sola squadra competitiva a livello di Barcellona, Real Madrid, Bayern, Paris Saint-Germain, Chelsea. Ce ne manca una, ce l'abbiamo avuta, prima era il Milan, Berlusconi spendeva, poi Moratti, e non dimentichiamo che insomma 3 anni fa sapete che ha vinto la Champions League. Adesso non abbiamo uno straccio di squadra che sia competitiva con queste pochissime. Torniamo a parlarne domani se ne avete voglia. Alessandro Iacopini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti.